Effetto Mondo. Eccoci qua, ben ritrovata cara Giulia Crivelli. Buongiorno a tutti. Di nuovo in studio. Da dove partiamo oggi? Ma guarda, partirei dagli Stati Uniti perché sì. Insomma io ero, anche quando insomma non ero qui a Milano, però la prima cosa al mattino cercavo di capire cos'era successo nelle ore precedenti negli Stati Uniti, e oggi la copertina dell'Economist è di un bellissimo blu, il blu è il colore dei democratici, il titolo è America's Ugly Election, quella brutta elezione dell'America, e poi c'è una domanda sotto: how bad could it get? Quanto ancora più brutta potrebbe diventare? E tra l'altro anche graficamente è interessante, sapete che la bandiera americana è fatta di stelle e di strisce, ci sono due stelle, sì. Da una cade una lacrima e invece la bocca all'ingiù della faccina triste sono le strisce. E perché sentiamo, loro dicono, ecco, che è così sentiamolo, brutta? Sentiamo innanzitutto le parole di Donald Trump pronunciate in Pennsylvania, appena sceso dall'Air Force One, sta facendo campagna elettorale molto attiva, dopo aver visitato il Wisconsin è andato appunto in Pennsylvania. Sentiamo una delle sue tante chicche della giornata. Trump. Before the China virus, this election was over. Now I had to go back to work, and we've done a great job on it. We don't get the credit. But did you ever see a man that likes a mask as much as him? China virus. Ecco, sì, è tornato a chiamarlo proprio China virus, è la sua definizione preferita del coronavirus, quindi il virus cinese, in alternativa Kung Flu, l'influenza appunto, Kung influenza. Quello che ha detto però è che prima di questo China virus le elezioni erano chiuse, cioè lui era sicuro di vincere, e poi I had to go back to work, ho dovuto tornare a darmi da fare. E poi c'è un altro estratto, e a vedere questi comizi fa impressione, perché in effetti chi lo sostiene ride molto a queste battute, giudicate voi se è così divertente. Prende in giro Joe Biden, che a sua volta è stato in Wisconsin, dove c'è stato il ferimento di Jason Blake da parte della polizia, e aveva una mascherina come tutte le persone all'incontro, rappresentanti della comunità di Kenosha, e Trump dice: io non ho mai incontrato una persona alla quale piace così tanto mettere le mascherine. Poi prosegue tra le risate del pubblico dicendo che spesso gli cade da un orecchio, perché lui è talmente Sleepy Joe che non riesce neanche a tenersi allacciata la mascherina. Insomma, questo colpi bassi a non finire, sì. E per questo appunto la copertina dell'Economist. Ma in realtà il tema è anche quello, naturalmente, delle violenze che continuano a attraversare gli Stati Uniti, e di questi continui allarmi che Trump lancia sulla possibilità di brogli. Addirittura ha fatto una cosa che se qualcuno venisse in mente di seguire i suoi suggerimenti compierebbe un reato, che è quello di votare due volte, per esempio votare per posta e recarsi al seggio. Naturalmente questo annulla il voto, ma è anche un reato. Però sentiamo invece cosa Joe Biden ha detto in questo incontro con i rappresentanti della comunità di Kenosha, che si è tenuto all'interno di una chiesa. Biden. I made a mistake about something. I thought you could defeat hate. Hate only hides. It only hides. Dice: anni fa, quando ho iniziato a fare, insomma, lui è stato si è occupato molto, ha fatto l'avvocato per molto tempo, ha detto: ho fatto un grande errore, ho pensato che comunque l'odio potesse essere sconfitto. In realtà, anche se non sembra più tra noi, si nasconde sotto delle rocks, delle pietre, e quando si soffia su quelle pietre, quel fuoco che c'è sotto, il fuoco della rabbia, dell'odio, torna a mostrarsi. Il riferimento, naturalmente, ed ecco perché diventa sempre tutto più ugly, è alle accuse di Joe Biden fatte al suo avversario Donald Trump di fomentare questo odio che attraversa la società americana. Questo è, credo, innegabile, in particolare per quanto riguarda le frizioni e le condizioni, le frizioni tra la comunità afroamericana e il resto del paese, che, lo ricordiamo sempre, gli afroamericani sono circa il 15% della popolazione americana, e poi naturalmente le disuguaglianze di reddito e di vita. Giulia, c'è questo confronto scontro tra la Germania di Angela Merkel e la Russia di Putin sul caso Navalny, è insomma un fatto abbastanza A livello internazionale dovrebbe occupare, credo, forse le prime pagine, ma chi è che se ne occupa? Se ne occupa in particolare Financial Times, che ha proprio il titolo principale, quindi la Merkel fa pressione perché si cancelli proprio questo grandissimo progetto Nord Stream 2 per via dell'avvelenamento di Navalny. La Germania ha chiesto, lo sapete, nelle settimane scorse di avere dal Cremlino delle dichiarazioni più veritiere, più trasparenti su questo avvelenamento avvenuto in Siberia del principale oppositore di Putin. La Russia ha detto che non contesta anche tutte le analisi fatte negli ospedali tedeschi, e la reazione della Merkel è questa, che a sua volta è molto sotto pressione, lo spiegano soprattutto i quotidiani tedeschi, da parte dell'opposizione interna, che sta cercando di approfittare di questa occasione, ma magari lo fa veramente per sete di giustizia internazionale, per dare un po' un colpo alla Merkel, che sappiamo gode di grandissima popolarità per come ha gestito la fase di emergenza sanitaria e come sta gestendo la ripresa economica. Allora Giulia, è venerdì, ci sono anche i settimanali, tra poco ci arriviamo. Dalla Germania però mi segnali che ci sono titoli sul fatto che l'associazione dei pediatri avverte sul rischio della vaccinazione obbligatoria, sì, per i bambini. Tanto, che succede? Scusami, visto che prima hai fatto riferimento allo sport, la foto di Financial Times in realtà è legata a questa rottura dell'accordo tra la Premier League, cioè l'equivalente della nostra Serie A in Gran Bretagna, e il colosso cinese FFTV, che non avrebbe pagato per la trasmissione, per avere i diritti TV, che naturalmente sappiamo sono cruciali per qualsiasi campionato, per non aver pagato come da accordi. Quindi si profila, insomma, una guerra dei diritti televisivi anche nel Regno Unito. No, dicevi, sì, mi ha fatto molto effetto, perché naturalmente sono due i temi. Il primo è come verrà data la priorità quando ci sarà il vaccino per il Covid, cioè quali saranno le categorie da vaccinare per prime. E poi si comincia, siccome anche in Germania molti scienziati, non tutti, stanno invitando le persone a vaccinarsi contro l'influenza per quella famosa questione, così almeno eliminiamo quando si hanno dei sintomi, eliminiamo la possibilità che siano legati all'influenza, perché contro l'influenza siamo vaccinati. E i pediatri, adesso l'Associazione dei Pediatri Tedeschi invece dice attenzione, però a renderlo obbligatorio per i bambini, perché mentre su altre vaccinazioni le percentuali, insomma, di controindicazioni per malattie infettive per i bambini sono poche, per quanto riguarda il vaccino dell'influenza siamo in un territorio sconosciuto, quindi andiamoci piano con questi obblighi. Stiamo parlando, chiariamo bene, del vaccino contro l'influenza nei bambini, sì. Su questo, dicono i pediatri tedeschi, non c'è abbastanza letteratura, quindi diciamo farlo, esatto, non valutiamo, è un'indicazione bene, perché visto che tra l'altro comunque, come abbiamo sentito anche prima, i bambini sono, per quel che se ne sa finora, anche se contagiati, magari hanno un'alta carica virale, ma non sviluppano la malattia. Purtroppo torniamo sempre lì, di questo virus sappiamo ancora poco, bisogna ammetterlo. Altro discorso è per il vaccino antinfluenzale di stagione, quello classico. Per le persone invece, le categorie a rischio, deboli, gli anziani per esempio, lì non ci sono cambiamenti, lo dico perché ci ascolta, è giusto che sappia quali sono le indicazioni. Poi chiaramente non dove c'è libertà ognuno si muove. Le classiche categorie a rischio, che sono le stesse in Germania come in Italia, persone in età avanzata o comunque con altre malattie, ma in generale per tutta la popolazione adulta, quindi anche in Germania questo cambiamento ci sarà in ottobre, poi vedremo se in settembre-ottobre, poi vedremo se sarà veramente obbligatorio in tutti i Länder, perché sapete che la materia sanitaria è di competenza regionale. Esatto. Spagna, mi segnali che c'è su Madrid preoccupazione perché si va quasi verso un nuovo lockdown. Sì, nei giorni scorsi addirittura qualcuno aveva ipotizzato, e El País, El Mundo e altri quotidiani avevano smentito questo, avevano dato la notizia ma poi erano arrivate smentite ufficiali, si era ipotizzato un secondo lockdown per questa seconda ola di coronavirus. In realtà la situazione più grave resta quella di Madrid, e El País titola: Madrid limiterà tutto quello che è vita sociale, quindi una sorta di lockdown per quanto riguarda tutta la socialità, non per quanto riguarda per ora le attività economiche e spesso anche quelle lavorative, però sicuramente la preoccupazione c'è. Mostra del cinema di Venezia sui giornali internazionali, vero Giulia? Sì, beh, il Paese naturalmente ha questa foto di Pedro Almodovar, che tra l'altro era vestito da marchi italiani, quindi ha fatto anche un red carpet poi molto visto sui social network. Accanto a lui Tilda Swinton, che non solo presenta un film ma è anche ricevuto un premio alla carriera, aveva un'acconciatura bizzarrissima. Ecco, a proposito di quello che si diceva nei giorni scorsi sulla bellezza non convenzionale, è comunque una donna bellissima, però sicuramente non ha paura di così anche di fare delle scelte che magari sembrerebbero un po' azzardate secondo il normale gusto estetico. Ok, grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi per quanto riguarda Effetto Giorno. Ci risentiamo lunedì prossimo, buon weekend, ciao.